Radio 24 Reportage. Il semestre a guida italiana di Gigi Donelli. Con il via del semestre a guida italiana della Presidenza dell'Unione Europea inizia anche il semestre della cooperazione allo sviluppo, in cui appunto quella italiana e in particolare la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo avrà un ruolo particolarmente importante. Ne abbiamo parlato in una visita al Ministero degli Affari Esteri con il Direttore Generale Giampaolo Cantini. Noi cominceremo subito nel semestre con un'importante occasione a livello politico, che è una riunione dei ministri dello sviluppo che si terrà molto probabilmente a Firenze il 15 luglio. Ci sarà una, diciamo, poi la riunione ministeriale di conclusione del semestre invece a Bruxelles in dicembre. È importante notare che questa riunione informale dei ministri dello sviluppo del 15 luglio avrà nel pomeriggio un evento, diciamo, di apertura alla società civile, in cui i ministri incontreranno membri della società civile, cioè ONG, ma anche il settore privato nella sua articolazione, dalla grande industria, alle cooperative e via dicendo, perché questo evento sarà dedicato a uno dei temi prioritari della presidenza italiana nel settore sviluppo, che sarà il ruolo del settore privato nelle strategie di sviluppo. Gli altri due temi sono il processo di elaborazione di negoziato della nuova agenda globale per lo sviluppo, la cosiddetta agenda post 2015, e un altro tema è il nesso tra i flussi migratori e lo sviluppo, cioè la creazione di impresa e l'effetto di ritorno nei paesi di origine che si crea attraverso il fenomeno migratorio. Ne abbiamo buoni esempi in Italia, dove un numero importante, a volte decine di migliaia di immigrati sono all'origine di creazione di impresa nel nostro territorio, ma poi attraverso le rimesse degli migranti, attraverso, diciamo, il loro know-how, contribuiscono alla creazione di impresa nel loro paese d'origine. Il rapporto della cooperazione tra l'Italia e l'Unione Europea. Beh, è uno stretto rapporto. La nostra cooperazione intanto fa riferimento come fonte di ispirazione, come fonte strategica ai documenti elaborati in sede Nazioni Unite, quindi innanzitutto l'agenda del millennio, ma un altro grande riferimento per la cooperazione italiana è l'Agenda for Change, che è il documento di strategia, di inquadramento dell'Unione Europea. E l'Agenda for Change contiene i principi fondamentali, quindi il principio, diciamo, di cosiddetta ownership, quindi le strategie di sviluppo devono originare dai paesi stessi, dai paesi beneficiari, un dei principi, diciamo, di efficacia degli aiuti, ma ecco, l'Unione Europea porta un'enfasi particolare sulla tematica dei diritti umani, del buon governo e della pace. Ecco, il fatto di avere un'organizzazione appunto a livello comunitario e 28 paesi che naturalmente partecipano con le proprie esigenze, priorità anche culturali. Beh, naturalmente è un processo graduale. Qui abbiamo, come dire, appunto 28 cooperazioni e una grande cooperazione che è quella della Commissione Europea con risorse molto ingenti. Il processo è graduale e infatti siamo partiti da 5 paesi, diciamo, dove si è svolto inizialmente questo esercizio di programmazione congiunta, si è esteso poi a una quarantina di paesi e vorremmo arrivare al regime, diciamo, nel 2017. Si tratta di armonizzare anche i cicli di programmazione degli Stati membri, dell'Unione Europea e via dicendo. Però c'è anche da dire che il concetto alla base della programmazione comune è un concetto di divisione del lavoro, quindi di ottimizzazione di risorse. Questo significa concretamente che in un determinato paese a uno degli Stati membri, alla cooperazione di uno degli Stati membri viene riconosciuto un ruolo di leadership in un settore e quindi quel paese, quello Stato membro investirà di più in quel settore, mentre probabilmente avrà un ruolo, come dire, un po' più complementare rispetto a un altro paese in un altro settore. Faccio degli esempi concreti: la cooperazione italiana viene riconosciuto un ruolo di leadership nello sviluppo agricolo in Egitto, sulle questioni di genere in Senegal, nella sanità in Palestina e via dicendo. Quindi questo è anche un modo per ottimizzare le risorse e per rendere più efficaci gli aiuti. Diciamo, la cooperazione italiana ha una particolare sensibilità verso due aree regionali in particolare, cioè Nord Africa, Medio Oriente da un lato e Africa subsahariana dall'altra, in particolare Tunisia, Egitto, Palestina, Libano. E mentre nell'Africa subsahariana abbiamo dei programmi importanti nei due Sudan, in Etiopia, in Kenya, in Mozambico, Senegal, Niger e Burkina Faso. Quindi un approccio selettivo di priorizzazione, anche lì all'insegna dell'efficacia e del coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea. Tutte queste linee sono riassunte in un documento, si chiama Linee Guida Triennali della Cooperazione Italiana, che è pubblicato anche sul nostro sito web. Libano, se c'è un paese che sta subendo l'impatto della guerra civile in Siria è il Libano. Torno da Libano, proprio da una visita in Libano di qualche giorno fa, e in effetti l'impressione è fortissima. Ho incontrato quattro ministri, tutti quanti hanno messo l'accento sull'impatto di questo flusso di profughi. Qualche dato, qualche cifra molto significativa: il Libano ha poco più di 4 milioni di abitanti, in questo momento ha quasi 1.200.000 profughi dalla Siria. Quindi proprio qualche ministro libanese mi diceva: immaginate in Italia un flusso di profughi di 15 milioni di persone. Il Libano, per il governo libanese, per ragioni politiche che si riferiscono anche al precedente, diciamo, dei campi profughi palestinesi, ha scelto di non istituire dei veri campi, però di fatto questi profughi trovano in qualche modo delle sistemazioni di fortuna all'interno delle città, delle comunità, soprattutto, diciamo, nelle zone vicine al confine. Le municipalità quindi si trovano ad avere un fortissimo impatto, perché tutti i servizi sociali, tutti i consumi pubblici aumentano proporzionalmente. Quindi noi come Cooperazione Italiana abbiamo deciso intanto di intervenire attraverso gli organismi internazionali che prendono in carico i profughi nel primo impatto. Ho visitato per esempio un centro di registrazione gestito dal Commissariato per i Rifugiati e un primo campo di accoglienza dove in particolare è forte la presenza di bambini, quindi dove l'UNICEF si prende carico, diciamo, della struttura scolastica, anche, diciamo, se è molto precaria e molto temporanea. Quindi aiutiamo queste organizzazioni internazionali, oltre ad altri, il Programma Alimentare Mondiale e la Croce Rossa Internazionale. Ma abbiamo deciso anche di operare attraverso altri canali. In particolare ci sono degli aiuti che vengono distribuiti con un sistema di bando attraverso le organizzazioni non governative italiane che operano nel paese e che anche esse svolgono delle attività di assistenza ai profughi, ma abbiamo deciso anche di operare a favore direttamente delle municipalità, quindi di sostenerle in questo sforzo di far fronte a queste esigenze accresciute a dismisura in termini di servizi, di erogazione di servizi sociali assolutamente essenziali, di base. Expo e cooperazione, in che modo si incrociano appunto questi due percorsi? Certo, quello di Expo è temporaneo, però decisamente importante ora. Il tema di Expo, nutrire il pianeta, energie per la vita, è un tema che ruota attorno alla tematica naturalmente del cibo e della nutrizione, quindi è un tema centrale nello sviluppo sostenibile e nel consumo sostenibile. Quindi in questo senso Noi vediamo un forte spazio per la partecipazione del sistema di cooperazione ad Expo. Sarà da parte nostra uno sforzo particolare divulgativo sui grandi temi dello sviluppo, con particolare attenzione al cibo, alle tematiche del cibo e della nutrizione. Ma sarà anche una grande azione di sensibilizzazione. Pensiamo, ecco, per esempio, alla tematica dello spreco del cibo, dello spreco alimentare, che costituisce un po' la saldatura, diciamo, tra le problematiche del cibo, nei paesi più a rischio e invece la problematica speculare della nutrizione corretta, nella lotta all'obesità e alle malattie trasmissibili nei nostri paesi. Ecco, su questo tema dello spreco alimentare si potranno realizzare delle ottime sinergie e, diciamo, in fondo la sfida è di far sentire il visitatore e il cittadino comune, io direi in particolare i giovani e anche i bambini, di farli sentire protagonisti di questa grande sfida. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.